vi riferirò un'altra notiziola di poco conto che ho carpito di straforo e senza mettere insieme tutte le coordinate necessarie da una rassegna stampa locale di Radio Popolare, una di queste mattine. Sembra dunque che nella Brianza operosa gli amministratori e i politici leghisti, che ivi notoriamente dominano, stiano finalmente affrontando di petto un problema serio, quello del peso eccessivo degli zainetti degli scolari delle elementari. Sono d'accordissimo, chiunque abbia avuto occasione di vedere i poveri cicci avancare verso scuola trasportando a fatica certi torreggianti contenitori degni di una pattuglia della legione straniera in marcia di punizione nel deserto non potrà dar loro torto. Così l'onorevole Luca Leone Orsenigo, che se non vi ricordate è quello che nella passata legislatura si era distinto per aver esibito in aula un cappio magistralmente annodato, quasi ad auspicio delle future intese con quello che il suo leader allora continuava a definire il fascismo forcaiolo, l'onorevole Luca Leone Orsenigo ha presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo che gli organi preposti all'adozione dei libri di testo diano la preferenza a opere composte a fascicoli o a fogli mobili, dimostrando che non c'è uno stupido tanto stupido non avere ogni tanto una buona idea, anche se non credo che le case editrici scolastiche abituate da sempre a fare i loro porci comodi gli daranno troppa tra. E il sindaco di una città della Brianza, a cui nome purtroppo mi è sfuggito, ma può essere persino Monza, ha dato disposizione ai suoi vigili urbani perché fermino i bambini gravati da uno zainetto troppo pesante e dissuadano i genitori da sovraccaricare la prole a suon di multe. Era ora, dice l'ascoltatore sollecito del benessere della spina dorsale delle nuove generazioni, ma poi, dopo aver detto che era ora, vi si affaccia alla mente il solito problema di metodo: e come cavolo faranno quei vigili a stabilire che lo zainetto è troppo pesante? Nessun problema per quel sindaco, chiunque sia, che ha trovato una soluzione semplicissima. Gli zainetti a pieno carico, dice lui, non potranno superare il 15% del peso dei bambini. L'ascoltatore ridacchia un poco, pensando al vigile appostato fuori dalla scuola con la bilancia, che prima pesa il bambino, poi pesa lo zainetto, poi toglie da tasca la calcolatrice e fa un rapido conto. Ma poi torna in sé e dice che no, non è giusto. Lui l'ascoltatore, sa per personale esperienza che un bambino pesante non è necessariamente un bambino forzuto. Anzi, se ci pensate, quelli un po' cicciottelli spesso sono di abitudini sedentarie, dal che deriva a volte il fatto che siano cicciottelli, e comunque hanno sempre meno fiato degli altri, perché si devono portare già dietro il peso dei propri stessi tessuti adiposi. Perché gravarli più degli altri, più di quelli magri e muscolosi che fanno pallacanestro dei muscoli splendidi? No. Quel benedetto sindaco non sa che a ciascuno bisogna chiedere di dare quanto può e che quanto uno può non si calcola peso? Poi l'ascoltatore capisce che questo principio a quel sindaco non può essere familiare, perché se si comincia a dire che uno deve dare quanto può, si finisce con concludere che bisogna dargli di quanto ha bisogno, e questo ai leghisti proprio non va giù. Non è solo assistenzialismo, è peggio. È una cosa di cui non bisogna nemmeno pronunciare il nome, una cosa che dalla gentile Brianza è stata bandita una volta per tutte. Per loro, per i sindaci e per gli ideologi di quella parte, cultori e vestavi del liberismo, ma non del tutto indifferenti alle lusinghe del monopolio, per loro vale il principio opposto, quello per cui quanto più uno è grosso, tanto più deve avere, a costo di caricarglielo sulle spalle.